La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi, 22 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast, Oscar Giannino. Vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Parliamo università numero chiuso sì o no, perché traiamo spunto dal fatto che ieri, a fronte del fatto che il Senato accademico dell'Università Statale di Milano doveva esaminare e decidere in ordine, sembrava favorevolmente, in ordine al numero programmato per corsi, il diploma di laurea come filosofia, quindi materie umanistiche, quelle che ancora non hanno il numero programmato, numero chiuso, come volete, c'è stata una contestazione diretta da parte di docenti e studenti, per cui alla fine poi il rettore Gianluca Vago ha abbandonato la seduta, quindi la cosa è saltata ed è questa vicenda tornata a sottolineare un punto su cui in maniera ricorrente ci si confronta nel nostro paese. Quando è entrato il numero chiuso nel nostro ordinamento, è entrato con la legge Zecchino, dal nome dell'allora ministro, la legge 264-99, ed è intervenuta all'inizio per alcuni corsi di laurea che riguardavano in buona sostanza le discipline e professioni sanitarie, quindi medicina, chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria e anche architettura. Da questi però corsi di laurea poi si è esteso nel tempo e quindi l'accesso programmato, determinato non per legge ma dai singoli atenei e non quindi dalla norma nazionale, si è esteso nel tempo. Si calcola oggi che siamo intorno a un 60%, diciamo, dal totale dell'offerta dell'istruzione terziaria, che poi diventa il canale verso cui puoi andare nel post terziario e quindi nei dottorati, ecco, più o meno il 60%. E ogni volta però è nei singoli atenei in cui avvengono poi le scelte di anno in anno, è una scelta che ha delle sistematiche contestazioni. Vediamo come il rettore Vago aveva in particolare giustificato un'intervista due giorni fa. Il rettore dell'Università Statale proponeva appunto l'adozione del numero programmato anche per i corsi di laurea umanistici. Vi leggo alcuni brani per capire quale fosse la motivazione e l'orientamento del rettore. Dice: il numero chiuso, diceva, è necessario anche lì per programmare le risorse, ma anche per aumentare la qualità, visti i loro risultati disarmanti, parole testuali del rettore, a partire da abbandoni e fuoricorso. Continuava: la maggior parte dei corsi alla statale oggi è a numero programmato, unica eccezione è appunto l'area di studi umanistici oltre a giurisprudenza. Ma il problema è: dobbiamo ancora continuare a riconoscere uno status diverso a filosofia, archeologia o storia? Non valgono quanto matematica, fisica, biologia? Per l'accesso libero, per accogliere tutti, servono più docenti. E poi, a parte questo, continuava il rettore, abbiamo constatato negli anni che dove non c'è filtro nell'accesso, i risultati sulla qualità sono negativi. Allora il giornalista gli chiedeva spieghi e lui continuava, il rettore Vago: in questi corsi gli abbandoni alla fine del primo anno arrivano al 25%. Nell'area umanistica, a 9 anni dall'iscrizione a una triennale, soltanto 3 studenti su 10 sono laureati. E anche sull'occupabilità i dati sono negativi. Secondo Alma Laurea, l'inefficacia di beni culturali, per esempio, è doppia della media di Ateneo, cioè degli altri corsi, e in alcuni corsi un terzo dei laureati che trovano un lavoro dichiara di non utilizzare affatto ciò che ha studiato all'università. Per questo credo che il numero programmato sia la soluzione, perché migliora la qualità e riduce il numero degli abbandoni. Per esempio, continuava il rettore Vago, a mediazione linguistica c'è il filtro, il 75% si laurea in corso, quasi come a medicina, dove può entrare 1 su 10 rispetto a coloro che si presentano alle selezioni. Certo, serve anche rafforzare l'orientamento prima, quindi nel ciclo precedente di istruzione alle scuole medie superiori, e noi lo facciamo, ma non basta per niente, né è sufficiente il test di autovalutazione. Ecco, questo era il nocciolo, per così dire, del ragionamento del rettore, che ne fa una questione A di programmazione delle risorse, risorse scarse, non infinite, quelle assegnate all'università dal fondo di finanziamento ordinario annuale, che ha cambiato i criteri nel tempo tentando di introdurre una parte che è almeno una parte rispetto al criterio della ripartizione in termini semplicemente equitativi e egualitari tra ateneo e ateneo, valutando la qualità, alcuni indicatori di qualità dell'offerta e della ricerca, ovviamente anche su questo ci sono state contestazioni, ma come vedete il ragionamento era abbastanza chiaro: da una parte miglior programmazione di risorse che sono scarse, non sono infinite, dall'altra diminuire gli abbandoni e alzare la qualità. Ecco, questi sono i tre punti di fondo. Allora, per capire quali sono i ragionamenti a favore e contro, perché la base della contestazione che ieri ha unito, ripeto, docenti e studenti, è no, questo, la limitazione all'accesso è innanzitutto rispecchia una impostazione della società che vuole limitare l'ascensore sociale. Due, il problema non può essere quello di accettare la limitazione delle risorse facendone dedurre conseguenze di limiti all'organizzazione e all'accesso, bensì il contrario: battersi ovviamente per aumentare le risorse e quindi docenti anche in cattedra. Questo a me sembra irrealistico, ma però questi sono alcuni dei punti. Non sono solo questi, a dire la verità, c'è anche una contestazione che ha a che vedere proprio con la, tra virgolette, qualità. Allora, per capirne di più, aspettando qualcuno di voi chiami all'800 24 0024, vi presento i nostri ospiti di oggi. Abbiamo appunto, lo citava anche il rettore Vago nella sua intervista che vi ho ripreso in alcuni passaggi, il presidente di Alma Laurea, Ivano Dionigi. Buon pomeriggio e grazie di aver accolto l'invito. Buon pomeriggio a lei che ci ascolta. E Elisa Marchetti, che è coordinatrice nazionale dell'Unione degli Universitari, tra l'altro trovate un sito a cura dell'Unione degli Universitari e dell'Unione degli Studenti Medi che fin da, come si chiama il sito, presenta tutti gli argomenti e le iniziative proprio contro il numero chiuso all'università. Elisa Marchetti, grazie di essere con noi, Elisa. Buon pomeriggio, grazie a voi. Come si chiama, per chi volesse documentarsi meglio, il sito che ho richiamato prima? Allora, si chiama www.nonumerochiuso.org. Esattamente. Allora, comincerei proprio da lei, sì, lei, stavo dicendo tu, ma sbaglio, lei, Elisa. Perché gli argomenti di Vago sono sbagliati a vostro giudizio? Allora, gli argomenti di Vago sono sbagliati per in realtà le motivazioni che appunto erano state richiamate appunto anche nell'introduzione. È vero che c'è già appunto una selezione naturale per l'accesso all'università dettata da barriere informali, quali borse di studio che mancano, tasse universitarie che sono troppo alte e che purtroppo non sono alla portata di tutti. C'è poi anche un tema generale, appunto politico, quello che giustamente veniva richiamato, cioè che le risorse sono scarse, quindi aumentare le risorse insomma per permettere a tutti l'ingresso è una battaglia che molto spesso insomma non può essere limitata al singolo ateneo, ma è infatti una battaglia che noi facciamo, insomma, facciamo a livello nazionale. Nelle singole situazioni, poi, adesso prescindendo anche da quella che è la situazione specifica di Milano, se ci opponiamo è anche perché appunto questa motivazione rappresenta uno schermo. Richiamiamo alcuni di quei corsi che appunto secondo la legge Zecchino sono a numero chiuso nazionale, a numero programmato nazionale. Se questi ci sono, architettura e veterinaria, soprattutto per architettura, a livello complessivo, il numero di studenti che tentano il test negli ultimi anni è inferiore rispetto ai posti disponibili. Questo che cosa significa? Significa che il numero chiuso viene continuato ad utilizzare come schermo, ad essere utilizzato come schermo per una fantomatica, insomma, qualità o prestigio di corsi che però, insomma, non avrebbero bisogno. Riporto un altro esempio: nel 2014, come Unione degli Universitari, abbiamo fatto entrare a medicina 10.000 studenti in più tramite i nostri corsi per la questione, insomma, famosa del plico mancante nell'università degli studi di Bari. Sì. Quindi sostanzialmente, grazie ai nostri corsi, sono entrati 10.000 studenti in più, in sostanza il numero è raddoppiato. Che cosa è successo? È successo che le università si sono riorganizzate, quindi magari hanno suddiviso le classi in più canali, hanno insomma, riorganizzato gli orari dei corsi, hanno riorganizzato le risorse interne e tutti quei 10.000 studenti che sono entrati in più, in alcuni atenei erano un numero irrisorio, in altri invece un numero importante che è andato a quasi triplicare talvolta quello che era il numero previsto, si è riuscito benissimo a fare una programmazione o comunque a garantire tutti i servizi che insomma dovevano essere garantiti. E un altro studio che noi abbiamo fatto specificatamente è stato sul rendimento accademico degli studenti entrati con ricorso. Si è visto che il rendimento appunto degli studenti è perfettamente in linea con quelli, tra virgolette, meritevoli che avevano superato. Sono entrati. Esatto. Sì. Quindi c'è anche un altro tema. Ora, possiamo nasconderci dietro al fatto che appunto il Ministero non investe risorse, e questo è assolutamente vero, però c'è un altro tema, quello della valutazione, per cui la valutazione è fatta di fatto in modo punitivo e incentiva le università di fatto a mettere i numeri programmati locali. E soprattutto c'è anche una questione di tra virgolette rettori che si leccano le ferite quando però prima non hanno fatto niente per contrastare questo sistema, perché allora se si dice che la colpa è del ministero che non investe, vorremmo sapere perché siamo sempre solo noi studenti a protestare quando appunto vengono fatti criteri di valutazione che sono iniqui e ingiusti, e soprattutto quando si tagliano risorse, perché quello che non è stato detto è che negli ultimi anni si è perso quasi 1 miliardo di euro di investimenti nel fondo di finanziamento ordinario, che è appunto il fondo con cui si ha il funzionamento strutturale dell'università. Quindi ecco, è vero che le risorse mancano, ma è anche vero che manca di fatto la volontà politica, tanto a livello locale, di appunto trovare delle soluzioni giuste, perché come dicevo prima, molto spesso il numero programmato locale viene visto come fattore di prestigio, perché in tante università, soprattutto del sud, il numero programmato locale viene messo, ma poi chi si iscrive al test è un numero minore rispetto ai posti effettivamente disponibili, e soprattutto c'è un ragionamento politico ben più complesso, per cui se ci lamentiamo che le risorse sono poche, bisogna allora combattere forse... per aumentare quelle. Allora, mi pare che Elisa ha esposto una serie, diciamo, di sistemiche osservazioni. Io premetto, molti potrebbero dire naturalmente tu non sei laureato, che cacchio vuoi? Faccio l'osservatore dei sistemi comparati, richiamo sempre il fatto che secondo me noi paghiamo un prezzo terrificante in termini di net. Sono chi sono i net? Quelli che non studiano, i giovani che non studiano e contemporaneamente non cercano lavoro, gli scoraggiati a tutto, sono 2.200.000. Tra l'altro domani invito tutti, troverete sui giornali moltissimi aggiornamenti, perché stamattina è uscito il volume, il rapporto Istat annuale 2017, vedrete i dati aggiornati della stratigrafia dell'Italia, demografia disastrosa, numero limitato di aumenti degli stranieri residenti nel nostro paese, perché ce ne sono un bel po' che se ne vanno per gli effetti della lunga crisi italiana, aumento delle diseguaglianze nella distribuzione dei redditi e dei patrimoni, problema intergenerazionale sempre più tragico nel nostro paese, quindi è pieno di indicatori su cui riflettere. Detto tutto questo, io credo che noi paghiamo un prezzo molto amaro al fatto che abbiamo negli anni 20, per via dell'idealismo che ha ispirato la cultura italiana, abbracciato questo sistema di formazione nella scuola secondaria, nel ciclo terziario e post terziario, totalmente scollegato rispetto al mix di specializzazione italiana e della offerta di lavoro, che naturalmente evolve nel tempo, nei decenni. Ecco, se pensate che 3 su 4 degli studenti universitari in Germania frequentano corsi di laurea triennale e poi anche di specializzazione, che sono professionalizzanti, la cui impostazione di programmi si è evoluta nel tempo a diretto contatto con le imprese dei settori che poi assumono ancora prima quasi della laurea, e fate il paragone con l'impostazione invece del sistema universitario italiano, ma anche della media superiore, abbiamo un scollamento totale. Questo spiega perché poi ci sono facoltà, per esempio giurisprudenza, in cui se uno va a vedere tutti gli avvocati italiani, possibilità per chi non ha uno studio in famiglia di arrivare, se non ha redditi propri fino a 35 anni, davvero a potercela fare, se non ha redditi propri, poiché nei primi anni significa andare in studio, magari ne abbiamo fatto puntate in intere su questo, ma vedendo pochissime centinaia di euro, anche se si inizia è vero con le fotocopie, ma poi si fa il più in realtà delle pratiche di studio, ma prima di arrivare ad avere un reddito di autosostentamento bisogna immaginare di essere ricchi in famiglia, perché altrimenti non si spiega perché tanti continuano a iscriversi a giurisprudenza pensando di fare l'avvocato. Detto questo, che sono le mie opinioni, chiedo al presidente di Almalaura, che oltretutto organizza un rapporto annuale, questo invece di certificazione, sul totale degli studenti italiani universitari e anche sulla loro collocazione nel tempo lavorativo, perché a giudizio di Ivano Lionigi le obiezioni, le ragioni di chi ha obietta, l'abbiamo sentita da Elisa Marchetti, sono sbagliate? No, io non sono qui a far l'avvocato difensore di nessuno, io sto registrando un fatto. Noi dobbiamo uscire qui dall'angolo, dall'equivoco. È chiaro che il problema di fronte al quale si trova l'amico Avago, si trova il rettore della statale, si trovano tanti rettori, mi sono trovato anch'io perché ho fatto il rettore dal 2009 al 2015. È chiaro che se facciamo lo schema, per intendersi, normale di Pisa, numero chiuso, è ovvio che facciamo tutti dei bravissimi, le cose funzionano e il dibattito viene ora affrontato da noi periodicamente, non in maniera strutturale, ma secondo ahimè la cronaca. Sì, infatti. Perché? Questo non va bene. No. Perché? Perché ci si trova di fronte a una carenza di docenti, soprattutto alcune università. Il Ministero ha imposto dei requisiti minimi di docenti, tot docenti, tot studenti, laboratori, aule, parametri, benissimo. E uno si trova, un'università, soprattutto alcuni, più in difficoltà di altri. Io non posso fare delle truffe ai danni delle famiglie, io devo fare dei corsi seri, devo preparare dei ragazzi, e più di tanti non posso fare. Questo è un discorso fattuale che non fanno più, ma questo è un discorso fattuale, questo è l'effetto, questo è a valle. Io studente, io genitore, posso dire che la Costituzione, come garantisce il lavoro, garantisce il diritto allo studio, e quindi come conciliare? Questo è il punto. Questo bisogna uscire da quest'angolo qui, sì. Primo punto. Questa è la prima croce. La seconda, siamo ultimi o penultimi, secondo dei conteggi, siamo ultimi dopo la Turchia per i laureati tra 25 e 34 anni. Siamo ultimi con il 25%. L'obiettivo di Lisbona 2020 dovremmo arrivare al 40%. Quando mai? Allora, siamo qui a dire che siamo un paese undereducated, colpito da undereducation, siamo ultimi, ci mancano i laureati. E poi mettiamo il numero chiuso non per una questione di principio, perché lede la dignità e i diritti, ma per un discorso di fatto. Di risorse. Allora io credo che questi problemi qui vadano affrontati, ecco, dal 1 gennaio al 31 dicembre ogni anno, e non in maniera episodica, così, perché c'è qualche rettore che paga la contraddizione di altri e si trova scaricate le contraddizioni del paese. E in quel caso io lo capisco, perché deve fare delle scelte che siano in piedi, ma non solo dal punto di vista economico, della ripartizione delle risorse assegnate. Io apprezzo moltissimo che Ivano Lionigi stia facendo questo discorso, perché un paese serio dovrebbe fare quel discorso generale che Lionigi sta invocando e che sarebbe normale in un paese normale, nel quale ricomprendere le obiezioni delle tantissime Elisa Marchetti, perché come vedete Ivano Lionigi non sta dicendo, come io schematicamente tentavo di indurre, no, tutto sbagliato, adesso vi spiego perché il numero chiuso è fondamentale. Il problema è: ci li vogliamo porre la questione di quanto diamo, dove e qual è l'ordine delle priorità sulla spesa pubblica? Ecco, cioè 16% in pensioni e assistenza, tanto, molto più che negli altri paesi. Non sto pensando di togliere niente a nessuno, abbiamo fatto un mucchio di puntate su questo, però siccome siamo un paese indietrissimo nella formazione del capitale umano, il dato, come vedete, accomuna le posizioni di Ivano Lionigi e di Elisa Marchetti, non le separa affatto. Torniamo tra un minuto, dopo un minuto di informazione di servizio sul traffico. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com. Vi presento. La versione di Oscar. Eccoci qua a parlare numero chiuso sì e no. Il numero chiuso si è esteso per limitazione delle risorse, sarebbe meglio parlare delle risorse assegnate prima che arrivare al numero chiuso. Questo è l'interrogativo. Con noi Elisa Marchetti, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Universitari, Ivano Lionigi, presidente di Alma Laura. Sentiamo Andrea che ci chiama dalla provincia di Bologna. Andrea, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono un laureato di Alma Laurea ormai di 25 anni fa e laureato in materie umanistiche. Poi Nella mia vita ho fatto tutt'altro, ho fatto il tempo a fare anche un dottorato di ricerca in storia. Io, visto che c'è Dionigi, devo dire la verità, anche dalle dichiarazioni che ho visto di presentazione, un po' anche degli studi che sono stati fatti, mi sembra che emerge poco un dato che andrebbe evidenziato, cioè il disaggregato. A me interesserebbe sapere qual è il tasso di occupabilità di chi esce da una facoltà umanistica da Alma Laurea e di chi esce dalle facoltà scientifiche, perché avere dei dati mediamente buoni, come ho sentito, è anche di interesse, però io credo che sia il momento un po' di guardarci negli occhi, cioè che ci sono facoltà che non portano da nessuna parte nel mondo del lavoro e ci sono delle facoltà che portano al lavoro. E io so che c'è un problema di orientamento, c'è un problema ovviamente anche di cercare di matricolizzare quanti più giovani possibile, però bisogna anche, insomma, diciamo le verità, diciamo che cosa porta a lavorare e che cosa non porta a lavorare, altrimenti purtroppo è un prenderci in giro, tutto qui. Diciamo che come per la sanità ci dovrebbe essere un portale con un database esteso in cui per ogni tipo di patologia, soprattutto quelle più gravi, il paziente italiano di qualunque regione, magari sistemi regionali, visto l'elevatissimo turismo sanitario e ospedaliero che abbiamo, dico turismo tra virgolette, dovrebbe avere l'accessibilità ai dati del successo in percentuale per tipo di patologia e terapia o tipi di interventistica usati, e non c'è nella sanità italiana. Altrettanto dovremmo fare per un portale con la comparabilità dell'occupabilità per ciascun corso di tutto il sistema delle università pubbliche italiane. Bisogna riconoscere che molte università hanno fatto qualche passo in avanti, anche alcune rilevanti su questo. Gli studi Alma Laurea, è vero, non sono troppo disaggregati, ma ci sono sull'occupabilità e la retribuzione media per laurea triennale e per le magistrali biennali. Cosa diversa è avere anche per corsi analoghi o uguali le percentuali diverse da corso di università a corso di università, perché è vero che malgrado il titolo di studio in teoria uguale per tutto, il mercato distingue, lo sapete perfettamente che è così. Sentiamo Domenico dalla provincia di Torino. Domenico, prego. Domenico. Sì, buonasera, grazie per avermi chiamato. Allora, io come esperienza ho quella di mia figlia che ha approvato per due volte il test di medicina a Torino. A Torino senza successo, purtroppo. E in realtà lei è una ragazza molto diligente, però non è adatta al test, nel senso che si agita nell'ora un quarto in cui questa è un'altra delle obiezioni, non l'abbiamo toccata, ma è un'altra delle obiezioni su insomma, l'ora e mezzo di test non funziona come criterio di valutazione. Io conosco questo tipo di obiezioni, quando le vedo però attuate su qualunque sistema di rilevazione e di certificazione, veda l'imbalzi, veda le cose eccetera eccetera, dico però bisognerà pure usarne uno. Ma lei dice però non è un buon sistema. Non è un buon sistema. Qualcuno ha parlato del sistema francese con lo sbarramento al primo, al secondo anno università. Almeno hanno un anno per esprimersi e per capire se quella facoltà fa per loro o meno. Cioè, incrementare soltanto la docenza in quella fascia di sbarramento non mi sembra che sia una cosa irrealizzabile, visto insomma poi. Verifichiamo la qualità dopo, inoltrandosi negli studi, questo nel corso, lei dice. Sentiamo l'opinione di Roberto della provincia di Milano, che mi segnalano come studente. Beh, sono contento che almeno la voce del studente. Roberto, prego. Sì, buonasera Giannino. Buonasera. Io sono uno studente, anche se diciamo un pochettino più datato, avevo 34 anni, ho fatto beni culturali, non alla statale, però su uno di quelli che sarebbe stato coinvolto. Sì. E sono rappresentante degli studenti, sotto sia in triennale che adesso in magistrale a Bicocca. Il discorso, secondo me, tra le tante obiezioni che sono state fatte, è anche questo. Si basa la qualità su delle percentuali, la percentuale dei fuoricorso, la percentuale degli abbandoni, ma non si va mai a guardare il perché di queste percentuali. Il fatto, per esempio, che molti fuoricorso sono fasce reddituali basse e che siccome i servizi offerti dai diritti allo studio sono molto bassi, devono trovarsi lavori part-time per poter pagare le tasse universitarie o mantenersi magari gli affitti. Si viene risucchiato. Ha ragione. Così come, ad esempio, un'altra obiezione che potrei fare al rettore, cosa che ho visto fare anche a Pisa, è che si destinano delle risorse interne all'Ateneo che sono già scarse e gli Atenei dovrebbero fare una battaglia politica a cose non prioritarie, le dice. Roberto, io la devo interrompere perché, come vedete, questo è un altro esempio, come la sanità ieri, in cui servirebbe almeno un'ora. Però io più che ringraziare Lisa Marchetti, Ivano Dionigi e tentare di avervi offerto un po' l'intera forbice di tutti gli argomenti che sono compresi in questa discussione, che noi facciamo solo quando si stabilisce la decisione invece di farle prima, ecco un altro esempio di come un paese normale dovrebbe procedere ad assumere decisioni in termini